Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E buongiorno, caro Mauro. Non è per far sorridere i nostri ascoltatori che ci seguiranno da Facebook questa mattina, ma ci vedono in una condizione un po' da sala operatoria, inevitabile anche da parte nostra seguire questo protocollo. Buongiorno. E d'altra parte, cara Deborah, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno, spero di trovarvi a casa, perché esatto, questo è il posto dove ci consigliano di stare. E gli ascolti si impenneranno in questo periodo, chissà. Accendete la radio, esatto. Accendete la radio, usate l'app, come volete. Ad esempio, però, io vorrei introdurre una cosa subito un po' di tipo personale, cara Deborah, che ci possa almeno un minuto, ma forse 10 secondi, sganciare da queste vicende. Prego. Del virus. Ben volentieri. Vorrei fare molti auguri alla signora Graziella, nonché mia suocera, che oggi compie gli anni. Il nostro idolo, che tra l'altro è una signora veramente molto in gamba, molto simpatica, molto attiva. E quindi a tutti coloro che fanno il compleanno oggi. C'è anche la mia amica Katia, per la verità, adesso che ci penso. Vedi, e allora a Castelfidardo. Facciamo tanti auguri anche a Katia, oltre che a Graziella. E la nostra Livia Zancaner. E qua la concludiamo in bellezza. E che così, ha portato i pasticcini. Con questo trittico abbiamo cominciato la trasmissione, sì, con una esatto, nota diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri varato la notte scorsa, ieri in Gazzetta, con questa zona arancione che coinvolge mal contate 17 milioni di persone, questa macro area. E dobbiamo parlarvi, ohimè, cara Deborah, dovremo parlare di mercati. Dovremo parlare di mercati. Non abbiamo fatto tutta questa lunga introduzione, questo lungo preambolo, per ovviamente non rispettare il nostro dovere del lunedì. Questa mattina eravamo abbastanza preoccupati sull'apertura della settimana finanziaria, ed effettivamente le preoccupazioni hanno avuto ragione di essere, perché il calo è veramente importante. Dopo il tracollo già avuto venerdì, oggi si replica con una batosta ulteriore. Peraltro, caro Mauro, adesso ce lo spiegheranno anche gli interlocutori che abbiamo interpellato per spiegarci quello che succede. Ad aggravare la situazione ci si è messa anche l'OPEC, che non si è messa d'accordo sui tagli, appunto, ai tetti produttivi venerdì scorso, e questa mattina ha determinato un tracollo delle quotazioni del petrolio superiore al 30%. Non si vedeva una situazione del genere dalla guerra del Golfo del 1991. Quindi proprio il caso di dire a gettare benzina sul fuoco. In questo caso sì, oppure a togliere la benzina, perché esatto, effettivamente non avendo trovato un accordo L'Arabia lo scriviamo. Saudita, esatto, ha ben pensato di ripartire con il suo output, come si dice, rimettere sul mercato 1,5 milioni di barili al giorno, e questo naturalmente scatenerà la inevitabile guerra dei prezzi. Adesso vi do tutta la panoramica di come stanno andando gli indici, con Milano che ci ha messo almeno mezz'ora ad entrare in negoziazione con regolarità. Adesso il ribasso di Piazza Affari è del 9,46%, la partenza è stata con un calo di circa 12 punti. Anche sul fronte spread BTP e Bund le cose non è che vanno bene, perché siamo volati a 230 punti, per ridimensionarci adesso un po', siamo intorno ai 216, quindi un fortissimo nervosismo che non riguarda solo Milano, ma riguarda anche tutti i mercati internazionali. Già stamattina l'Asia e i futures su Wall Street non indicano nessuna buona prospettiva per la nuova apertura di oggi. Chiederemo ai nostri operatori se a questo punto possiamo dire che siamo entrati in una fase di correzione. Ci sono delle regole ben precise che lo determinano, questo cambiamento, e adesso ce lo faremo spiegare. Per quello che riguarda invece la seconda parte? La seconda parte la dedicheremo ad approfondire qualcosa, perché come sapete il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, annunciato, varato nella notte tra sabato e domenica, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, bene, questo decreto contiene molte disposizioni con l'istituzione di queste zone cosiddette arancioni, quindi la Lombardia più 14, nel senso di province, e tra le disposizioni che vengono subito all'occhio ci sono quelle relative al lavoro, specialmente lavoro dipendente. perché si parla di utilizzo delle ferie, dei congedi e di nuovo dello smart working. Allora analizzeremo un po' che bisogna fare, quali sono diritti, doveri, prassi che si possono utilizzare in queste giornate, ohimè, così inedite e davvero inaspettate. Ma certo, chi poteva prevedere una situazione del genere? Chi poteva prevedere che andassimo in onda con i guanti monouso per rispettare appunto l'igiene del posto di lavoro? È così. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. La email nostra, la nostra casella di posta elettronica è 2didenari, scritto tutto con le lettere, 2didenari@radio24.it. E adesso, cara Debora, cortesemente, certo, Meteoborsa. Meteoborsa. Segnati però intanto anche questa domanda, proveremo a rispondere a questo ascoltatore, so già che è tra le domande più gettonate delle ultime ore. Un ascoltatore ci scrive: in seguito all'ultimo provvedimento vorrei capire se io dalla provincia di Vicenza posso raggiungere l'aeroporto di Bergamo, nel caso posso chiedere alla compagnia aerea il rimborso per questo motivo. Allora, tra l'altro, sul tema dei viaggi non mi ero accorta della seconda parte della domanda, altrimenti non te l'avrei letta, Mauro. Il punto è che molte compagnie si stanno attrezzando in via autonoma e comunicano agli diretti interessati che hanno effettuato delle cancellazioni di voli e di trasferimenti, per cui in via autonoma rimborsano. Per altre circostanze ci si deve attivare, soprattutto se si tratta di viaggi organizzati con tour operator, e quindi ogni situazione fa a sé. Mi sembra strano che Ryanair, lo dico all'ascoltatore, non le abbia scritto per comunicarle se il volo è stato più o meno cancellato. All'Italia, per esempio, questo poi volevamo raccontarlo dopo, ha già disposto la cancellazione di tutti i voli da Malpensa, da e per Malpensa, quindi bisogna vedere in questo caso nel volo, appunto nello specifico, quando deve farlo e con che destinazione. E più in generale lo spostamento tra e da e per le zone cosiddette arancioni, quindi per farla semplice l'intera regione Lombardia, è da evitare. Questa è la dizione del decreto di ieri, quindi evitare ogni spostamento delle persone fisiche. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche mi sembra cosa che non si possa tanto interpretare. Esatto. Allora, Mercati, buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina. Abbiamo rafforzato un po' il presidio su questo argomento d'apertura. Buongiorno ad Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM, ben ritrovato, grazie. Buongiorno a voi, agli ascoltatori. E Filippo Diodovic, Senior Strategist di IG Italia, ben trovato anche a lei, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tutto come da copione, potremmo dire questa mattina. Immaginavamo già che, alla luce delle notizie che hanno avuto come epicentro l'Italia nelle ultime ore, ma anche alla luce della diffusione del contagio sempre più vistosa anche in altre aree europee, era abbastanza prevedibile immaginare che questa mattina l'apertura sarebbe stata così pesante. O non è così, Cesarano? Insomma, sicuramente l'OPEC con la sua decisione di venerdì ha contribuito ad esasperare un po' il nervosismo, ma sembra veramente quella di quest'oggi una tempesta perfetta per i mercati finanziari. Cesarano, comincio con una prima battuta con lei. Sì, insomma, è caso dire piove sul bagnato, però la decisione della Russia probabilmente è anche collegata a una fase congiunturale piuttosto difficile. La Russia probabilmente chiedeva anche altre cose su altri tavoli. Spieghiamo che cosa ha chiesto la Russia all'OPEC, sì, appunto venerdì, e perché non si sono messi d'accordo. Peraltro la Russia, sì, non è un paese OPEC, è un paese cooperante praticamente nel cartello, tanto che qualche anno fa è stata coniata l'espressione di OPEC Plus. Esattamente, cioè si è aggiunta, è diventato un paese aggiunto, ma molto importante, visto che è tra i principali produttori di petrolio al mondo, insieme all'Arabia. Ebbene, la Russia è arrivata lì, ha rifiutato qualunque forma di compromesso che proponeva la stessa Arabia, è arrivata a Vienna venerdì scorso quando è stata la riunione, e un'ipotesi chiaramente non dichiarata in modo esplicito è che la Russia, in realtà dal 2014 sono state comminate delle sanzioni alla Russia dopo l'invasione della Crimea. È possibile che la Russia si stia chiedendo una malleva di queste sanzioni che ormai vanno avanti da quasi 6 anni. Tutto ciò non è stato possibile, la Russia a questo punto ha fatto saltare il tavolo e l'Arabia per tutta risposta questa oggi prima ha venduto attraverso Aramco il petrolio a prezzi ben sotto il mercato e poi ha fatto trapelare l'intenzione di voler aumentare di molto l'offerta di petrolio in un contesto in cui la domanda ovviamente le sue difficoltà. È in crollo verticale, certo. In crollo verticale, e l'impatto è stato quello che stiamo vedendo questa mattina. E infatti i prezzi, come dicevo, in violento calo, oltre il 30%, con il, adesso li vado a ripescare perché qua devo ogni volta cambiare la configurazione della mia piattaforma che monitoro, il Brent a Londra è a $37 al barile, il WTI americano intorno ai 33, naturalmente già qualche ascoltatore auspica la riduzione fortissima ai prezzi alla pompa e vedremo quando si manifesterà in maniera significativa. Intanto do le quotazioni degli indici europei in questo momento: meno 9,87% per Milano, meno 7% per Parigi, meno 6,6% per Francoforte, meno 6,5% per Londra, Tokyo ha chiuso con un ribasso del 5%, in calo di circa 2 punti, 3 i listini cinesi. Volevo un commento su questo con Filippo Diodovic. Peraltro abbiamo visto proprio in questi giorni come le notizie sul fronte sanitario più rassicuranti che sono arrivate dalla Cina hanno consentito alle piazze cinesi di recuperare valori che non si vedevano dalla fase precedente al capodanno lunare, quando è cominciata l'interruzione di ogni attività produttiva in quella zona e di conseguenza anche il tracollo dei mercati finanziari. Ecco, un tempo di recupero anche abbastanza importante per il mercato azionario cinese. Secondo lei, adesso faccio una previsione un po' per stemperare anche la tensione di questa mattina, l'Europa potrebbe riuscire a mettere in campo una stessa capacità di recupero del mercato azionario non appena, noi lo speriamo in tempi brevissimi, l'emergenza sanitaria sarà passata? Ma è possibile, ma servirà l'aiuto di politiche fiscali, politiche monetarie in grado di rilanciare una ripresa. A me ha impressionato molto quando ho seguito la conferenza stampa di Jerome Powell che è mancato un coordinamento da parte delle banche centrali. E all'interno del Consiglio monetario della BCE c'è stato qualcuno che si è messo di traverso per, ricordiamolo, giovedì ci sarà la riunione della Banca Centrale Europea. Però ecco, non solamente politiche monetarie, ma servirà anche uno sforzo dei governi nazionali europei per, con un aumento della spesa pubblica e con un'agevolazione dei incentivi fiscali per le imprese, proprio per aiutare un settore che molti settori che sono in forte crisi. Diodovic, non la sentiamo benissimo con il telefono, le faccio un'altra domanda per capire se magari riusciamo a sistemare un po' meglio il posizionamento della sua cornetta. L'ultima volta che abbiamo visto un'azione concertata delle banche centrali è stato all'indomani dell'11 settembre, non mi pare che successivamente ci sia stato qualche altro caso, non vorrei adesso fare subito la brutta figura con gli ascoltatori, ma iniziative congiunte da parte degli organismi internazionali come quella non ce ne sono state successivamente. Sarebbe stato il caso in un frangente delicato come quello che viviamo in queste settimane di mettere in campo un'iniziativa del genere? Diodovic, che ne pensa? Perché qua sono riandate di nuovo in ordine sparso questa mattina dalla Banca del Giappone, ancora una volta è arrivata un'indicazione di da quel versante essere pronti a mettere in campo iniziativa abbastanza rapidamente, come ha fatto la Cina anche la settimana scorsa. Da quest'altra parte appunto del pianeta si fa un po' più difficoltà, forse munizioni da sparare ce ne sono meno, ma come dire, qualche cosa di un po' più concertato forse sarebbe stato auspicabile. Diodovic. Sicuramente un'azione coordinata da parte delle banche centrali avrebbe avuto sicuramente un effetto soprattutto sui mercati azionari, perché avrebbe evitato le vendite legate al panico che abbiamo visto in queste ultime sessioni. Sarà comunque importante adesso vedere quale soluzione troverà la BCE, perché come detto ha poche munizioni nel proprio arsenale, quindi molto probabilmente con un taglio sul tasso sui depositi potrebbe avere effetti molto limitati. Quindi adesso sta molto parlando di fare delle nuove aste TLTRO rivolte soprattutto a quelle banche che fanno prestiti alle piccole e medie imprese, e soprattutto anche rivedere possibilmente anche il piano di quantitative easing, soprattutto spostandolo verso più un acquisto di corporate bond. Certo, il quantitative easing è quella grande iniziativa che è stata messa in piedi all'indomani, diciamo, del whatever it takes di Mario Draghi, quando la Banca Centrale Europea ha cominciato a comprare sul mercato asset di vario tipo, titoli di Stato con determinate caratteristiche, poi appunto obbligazioni societarie, lei le ha chiamate giustamente in inglese corporate bond, e poi questo piano è andato via via riducendosi fino al livello che sta andando avanti in questo momento, ma che forse dovrebbe essere un po' ripristinato in termini di quantità. Qualche altra notizia in ordine sparso, Marco. Mauro, ti racconto che l'oro stamattina è sopra i $1,700 l'oncia e naturalmente il bene rifugio per eccellenza prende il volo. Diciamo prevedibile, nel senso che potevamo aspettarcelo. Un'altra cosa, il rendimento del Treasury, del titolo decennale americano, è scivolato temporaneamente sotto il 0.5% percentuale, registrando il calo più marcato dalla prima guerra del Golfo. Questo segnale, e a proposito, guarda, di titoli di Stato, anche il nostro surriscaldamento dello spread, che in poche ore è salito, mi pare, sopra i 210, 40 punti, addirittura toccato i 240. Volevo chiedere ai nostri esperti, non so, possiamo andare in ordine alfabetico per cognome? Come preferisci. Cesarano, queste tensioni sui titoli di Stato, come dobbiamo leggerle? Che significato hanno? Allora, l'allargamento dello spread è collegato in buona parte anche un po' alla divergenza proprio di andamento di tassi tedeschi scendono e i nostri salgono, un po' perché la preoccupazione di mercati che vedono ancora l'Italia un po' come al centro del fenomeno virus, le implicazioni sui conti pubblici di tutte le manovre, perché insomma ci sia una ampia apertura a quanto pare dall'Unione Europea a concedere più flessibilità all'Italia al sistema dei conti pubblici, però il mercato lo vede un po' più con preoccupazione e quindi in questo caso penalizza i nostri titoli. Siamo sempre su livelli storicamente molto bassi di rendimento, 1,27 sul decennale non è altissimo, però stiamo divergendo come andamento rispetto al Bund. Quindi è l'effetto del timore che l'Italia sia al centro un po' del fenomeno e che le manovre pesino di più per un paese molto indebitato come l'Italia. E per quanto riguarda invece i titoli americani? E i titoli statunitensi, c'è una corsa violentissima per la prima volta nella storia, vediamo tutta la curva statunitense dal 3 mesi al 30 anni sotto l'1%, qualcosa mai visto neanche in crisi passate, perché si immagina che la cosa minima che la Fed possa fare è un taglio violento dei tassi. A fine del 2008 la Fed portò i tassi allo 0,25%, potrebbe fare lo stesso da qui a un mese la Fed, da qui a entro aprile. E il mercato, in un contesto in cui vede l'economia potenzialmente molto molto rallentata per il virus in espansione, porta i tassi giù. E anche un po' l'effetto cosiddetto flight to quality, cioè si va verso quello che viene percepito come la sicurezza massima. Tra questo anche il Bund, i titoli tedeschi, il decennale rende meno 0,85. Quindi diciamo che l'effetto sullo spread, appunto lo rimarcavamo poco fa, è determinato proprio da questo. Tra l'altro anche il mercato valutario non è stato esente da movimenti. In nottata l'euro ha toccato, sempre per effetto di questa prospettiva di ulteriore taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti, l'euro ha toccato 1,15 sul dollaro, ma c'è stato un movimento vistoso appunto nei cross, nei rapporti fra tutte le varie valute. Volevo togliermi un'altra curiosità, faccio una carrellata veloce dei peggiori titoli in assoluto, in questo momento quelli che perdono oltre il 10%. Non che gli altri se la passano meglio, appunto, ma i cali più vistosi sono su quelli del settore petrolifero. Saipem meno 18, un'ora fa perdeva il 27%, Eni meno 16,5, Tenaris meno 16,5, Unicredit meno 13,5, Azimut meno 13,5, Poste Italiane meno 12,5, Banco BPM meno 12,5, Atlantia meno 11,5, Biperbanca meno 10,20. Mi fermo qua, poi tutti gli altri perdono tra il 7, l'8 e il 9. Di Odovic, io mi chiedo, il calo di stamattina è frutto sicuramente di nervosismo, emotività, preoccupazione, la questione dell'OPEC, eccetera. Ma queste valutazioni, i cali così importanti, appunto, quanto sono distanti dal rispecchiare i fondamentali di questi gruppi? Cioè, stiamo esagerando secondo lei o c'è ancora addirittura spazio per scendere ulteriormente? Ma c'è spazio per scendere ancora, ma perché molte aziende dovranno rivedere i propri obiettivi, la propria guidance per quanto riguarda l'anno, soprattutto i settori più colpiti, dal turismo al settore del lusso, al settore dei trasporti, perché ancora non sappiamo se siamo arrivati a un picco per quanto riguarda il numero di contagiati, quindi quanto durerà, se sarà solamente un mese, 6 settimane, 2 mesi. Quindi è possibile che ci saranno altri ribassi. È vero che in questo momento siamo scesi notevolmente, quindi ecco, nelle prossime sedute potremmo avere dei rimbalzi, soprattutto, come detto, se interverranno politiche fiscali, quindi dei governi centrali e una politica monetaria adeguata proprio per dare respiro ai mercati azionari. Io posso fare il risparmiatore qualsiasi quale sono, Deborah. Quale siamo, oserei dire, perché qua bisogna raccontare queste cose e stare distaccati. Poi uno spegne il microfono, si toglie la cuffia, torna alla sua scrivania e si riconsidera come essere umano che consuma, risparmia, spende, paga il mutuo e le bollette come tutti quanti, caro Mauro. Esattamente. Ecco, e allora io nulla viaggi, ovviamente, gli spostamenti. Chiederei ai nostri esperti, vabbè, sappiamo che di queste cose bisogna un pochino metterle in preventivo nella vita di un risparmiatore, di un investitore, bisogna diversificare, eccetera, eccetera. Però abbiate pazienza, la preoccupazione, il nervosismo poi viene. Che si fa vedendo questi andamenti così negativi dei mercati azionari? Bisogna modificare qualcosa, perché avete appena detto, nessuno può prevedere quanto durerà lo stato di rallentamento, di crisi derivato dal coronavirus. Chi vuole cominciare? Cesarano? Allora, sì, in fasi come queste, personalmente è chiaro, le crisi hanno ritmi completamente diversi rispetto al 2008, all'epoca finanziaria e questa economica, però come andamento e manifestazione sui mercati hanno diverse similitudini. Credo l'impressione che ci sarà ancora delle penalizzazioni sui mercati azionari da qui ad aprile, per cui in casi come questi la cosa migliore è cercare di approfittare di questi eccessi. Arriveranno anche delle manovre fiscali espansive, i governi, che però vedremo probabilmente come impatto nella seconda parte dell'anno. È possibile, sperabilmente, che il virus tra qualche mese un po' sarà meno forte come presa, la diffusione massima potrebbe arrivare nel mondo, e scusa la Cina, che già sta recuperando nel frattempo da qui a giugno. Quindi se tutto questo è corretto, la cosa migliore è accompagnare con dei PAC, dei piani di accumulo, progressivamente i mercati, senza avere l'ambizione di prendere i minimi. Credo che qualche tensione in più da qui ad aprile ci possa essere, il mercato sta aspettando anche il momento che semmai l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiari ufficialmente la pandemia, cosa che ancora non è stata fatta, e poi ci potrebbe essere l'intervento forte delle banche centrali. Un primo pezzo che serve a prendere tempo più che a curare, ma in questo momento tutto fa brodo, occorre anche questo. Questa settimana vedremo la BCE, la prossima la Fed, ma credo che gli interventi ancora più corposi, soprattutto da parte della Banca Centrale statunitense, arriveranno nel mese di aprile. Ed è lì che probabilmente avremo forse un recupero dei mercati. Non una ripartenza, allora, speriamo, certo. Un'altra domanda di Odovic e poi lo salutiamo perché già il tempo a nostra disposizione è terminato. Ieri circolava questa intervista rilasciata ad un sito internet finanziario all'amministratore delegato della Borsa Italiana Raffaele Ierusalmi, che si dichiarava in disaccordo con la possibile chiusura questa mattina della Borsa Italiana, cioè non consentire l'apertura della seduta di borsa per quello che riguarda Milano. È inutile creare del panico, il mercato deve fare anche un po' il suo corso. Era quello che voleva dire. A vostro avviso, dal punto di vista degli operatori finanziari professionali, una chiusura sarebbe stata auspicabile questa mattina, o a questo punto era anche troppo tardi? Forse se doveva essere fatta andava fatta la settimana scorsa. In un minuto, Diodovic. Sì, no, noi siamo dell'avviso che comunque la continuità è sicuramente un elemento positivo per quanto riguarda i mercati. Si può mettere meglio la cornetta che non la sentiamo? Sì. Ecco. Sì, stavo dicendo che il nostro avviso è che comunque la continuità è sempre la miglior cosa, perché evita di dare segnali troppo negativi ai mercati finanziari. Quindi consideriamo corretto il fatto di aver mantenuto la borsa aperta nonostante i ribassi della giornata, ma li avremmo visti nella giornata seguente. Esatto, infatti se tu chiudi per 3 giorni la borsa, poi tutto quello in termini emotivi e di operazioni da fare che si accumula, tanto vengono fatte, no, prima o poi. Sì, certo, quindi perché gli altri mercati erano aperti, quindi avremmo visto comunque gli investitori che si sarebbero rivolti verso altri mercati. Va bene, allora ringraziamo i nostri due esperti, Antonio Cesarano e Filippo Diodovic, speriamo in recuperi rapidi dal coronavirus, naturalmente a beneficio di tutti noi, anche tuo e mio, Deborah, visto che siamo qui con i guanti monouso a trasmettere e speriamo anche in un recupero per quanto riguarda gli andamenti dei mercati finanziari. Faccio una borsa d'ordinanza delle 11.30, ma la faccio durare 5 secondi perché voglio sentire che cosa succede per chi lavora e si sta interrogando su come lavorare da casa in questo periodo, consumare le ferie, chiedere il congedi parentali o meno, e quindi ci sono tante opzioni sul campo e vanno spiegate bene ai nostri ascoltatori. A tra poco. Viva la fatturazione elettronica! Due di denari. Ma quindi adesso i prezzi alla pompa scenderanno almeno del 20%? Allora, del 20% no, però sarà un tema da monitorare nei prossimi giorni, Mauro. Noi dobbiamo prendere le nostre personalissime battaglie in questa nuova fase da coronavirus. Ci sono tanti temi da monitorare. Allora, adesso con due esperti con la E maiuscola, mi viene da dire, della materia, andiamo sulle questioni del lavoro, perché questa mattina è stato tutto un po' un cercare di capire come regolarsi con il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto diffuso appunto ieri, e che consente lo smart working così come avevamo già visto nelle settimane precedenti, però dice anche utilizzate le ferie, utilizzate i congedi. È facile dirlo, però quindi come si fa? Si sceglie liberamente oppure no? Bravo. Risponderanno Enzo De Fusco, che saluto, è già in linea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Esperto del Sole 24 Ore e il collega del Sole 24 Ore, Matteo Prioschi, buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Vi chiedo solo un attimo, perché intanto butto lì due o tre cosucce che non c'entrano con il vostro tema, su cui arriviamo subito. Ma allora, nel decreto di ieri, cara Debora, si fa divieto, come sai, anche delle cerimonie religiose. Sì. Le esequie, i funerali, ohimè, ma anche i matrimoni, che comportano spesso delle spese che sono preventivate con largo anticipo. Certo, e anche con degli acconti importanti, magari alla struttura ricettiva dove farai il pranzo, ecco, nuziale, eccetera. Che succede? Fatecelo sapere, 349-238-6666 oppure email 2didenari@radio24.it. Non ci possiamo occupare solamente di viaggi cancellati, ma qua c'è una cancellazione a raffica di tutta la nostra vita, con delle implicazioni economiche importanti per il portafoglio di tutti, fra cui quello di Mauro, che ieri è stato protagonista di una disavventura, che l'ha un po' impermalito. No, disavventura no, però mi chiedo questo, e lo chiedono anche diversi ascoltatori, posto che dobbiamo prendere le consumazioni del bar ai tavoli, ma questo uso di maggiorare il costo delle consumazioni se sei al tavolo, ma se sono obbligato ad andare al tavolo, perché mi maggiorate le consumazioni? Sì, ma posso dire, ma anche a patto di voler condividere tutti in questa situazione, no? Quindi di fare anche noi la nostra quota parte per il disagio che baristi e esercizi subiranno in questa fase, ma che questa maggiorazione sia anche un attimino un po' dignitosa. Diciamo che io sono caduto in una maggiorazione importante. Tipo per quella dei giapponesi a Roma quando vengono in vacanza, e non c'è nessun coronavirus in quelle fasi. Tanto per fare delle cifre, un cappuccino 3,50 euro, spero non era per me, spero che, ma dove t'eri seduto, soprattutto te l'ha dovuto portare con l'auto, non lo so, cioè. No era un tavolino normale, non c'era neanche tanta distanza. Bene, andiamo sulle questioni di lavoro, che sono molto serie. De Fusco, prima domanda bruciapelo per lei. Allora, ferie, congedi, smart working, ma il lavoratore è libero, che deve fare? Deve chiamare il datore, deve chiamare il suo responsabile di settore? Chi decide qui che cosa bisogna fare? Allora, intanto è importante dire ai radioascoltatori che manca un importante pezzo del puzzle normativo. Il 12 marzo, quindi fra qualche giorno, una volta che il Parlamento ha dato il via libera allo stanziamento straordinario, sarà approvato un decreto legge in cui saranno presenti disposizioni molto precise per quanto riguarda appunto la gestione del personale. Ovviamente questo DPCM, che è stato approvato nella notte tra il 7 e l'8 marzo, è un DPCM che dà delle indicazioni che però sono al momento in parte utilizzate all'interno delle aziende. Allora, è chiaro che il DPCM dà una priorità: usate permessi, usate ferie e usate congedi. Che cosa vuol dire? Che il datore di lavoro ha certamente la possibilità di imporre l'utilizzo delle ferie, nella misura in cui è costretto a dover chiudere parzialmente o totalmente la sua azienda. De Fusco, la interrompo per sottolineare questo: imporre l'utilizzo delle ferie, quindi il datore è nella condizione, questo a prescindere dalla dimensione dell'azienda, la dimensione dell'attività. Esattamente, questo perché si identifica lo stesso principio delle ferie collettive. Quando l'impresa chiude l'estate, è evidente che in quel caso c'è l'utilizzo delle ferie collettive. Questo è un po' assimilabile come ipotesi, A maggior ragione che magari esistono dei provvedimenti di restrizione della gestione aziendale. Pertanto sono assolutamente dell'idea che il datore può imporre questa condotta. È chiaro anche che in questi casi io sto registrando una condivisione anche di tipo sindacale nell'utilizzo di questi strumenti, ma e sarà importante attendere il 12, perché il 12 verrà introdotto quello che oramai viene chiamato l'ammortizzatore unico nazionale. Ci sarà un'unica causale che potrà essere utilizzata dalle varie aziende, quelle già coperte da ammortizzatori e quelle prive di ammortizzatori, che avrà un accesso speciale e accelerato per integrare il reddito dei lavoratori. Questo sostanzialmente lei ci sta declinando, De Fusco, quello che ha un po' anticipato Misiani questa mattina a 24 ore mattino, a 24 mattino con Simone Spezia e Maria Latella, ha detto: stiamo ragionando su interventi per dipendenti autonomi, quindi ci sarà questa sorta di ombrello collettivo per quanto riguarda le difficoltà delle imprese. Beh sì, direi di sì, perché noi siamo un paese che ha aziende inquadrate sul piano previdenziale in modo eterogeneo, nel senso che alcune hanno la CIGO e la CICS, quindi la cassa ordinaria e quella straordinaria, altre non hanno nulla, altre hanno il FIS, che è il Fondo Integrativo Salariale, quindi una gestione disomogenea, quando invece l'emergenza è sostanzialmente uniforme, non andava bene. Quindi ecco perché, che cosa si sta pensando e cosa anche accadrà nei prossimi giorni, e che verrà introdotta una causale speciale coronavirus, per intendersi, che se l'azienda ha una copertura già dell'ammortizzatore ordinario, userà quell'ammortizzatore ma con questa causale, mentre chi non ha nulla potrà godere di della cassa integrazione in deroga, quella di competenza, se vogliamo, finanziata dalle regioni, sempre con l'utilizzo di questa causale. Cosa dovrebbe consentire l'utilizzo di questa causale? Di andare in deroga a tutte le regole ordinarie previste per gli ammortizzatori sociali. Quindi non sarà necessario fare l'accordo, potrà in linea di massima essere retroattivo, non si compunterà nei limiti di durata massima che sono stabiliti dal decreto 148 e così via. Erogazione veloce senza troppe procedure. Vi chiedo scusa a entrambi, soprattutto a Matteo che non abbiamo ancora interpellato, ma lo chiamo in causa subito dopo la nostra interruzione per le informazioni sulla viabilità. Voglio capire come funziona invece se si sceglie di ricorrere al lavoro agile, ovvero smart working. Adesso il traffico. Di denari. EasyJet sul suo sito scrive: poiché gli aeroporti sono operativi, i nostri termini e condizioni generici rimangono invariati, il che significa che le nostre tariffe non sono rimborsabili. Se cancella, perde o non prende il suo volo, purtroppo non potremo offrirle un rimborso totale. Capito? Non gliene frega niente del coronavirus. Ma visto che ci obbligano ad andare in congedo, ad andare in ferie, ad alcuni, ma perché non ci obbligano a chiudere tutto e basta? Per 15 giorni si chiude tutto. Allora, sul tema della compagnia aerea noi necessariamente ci ritorneremo prossimamente, ma mi risulta che per qualche volo la compagnia in via autonoma contatta l'eventuale passeggero per comunicare che il volo è stato cancellato. Quando viene cancellato, se poi i voli vengono fatti regolarmente, bisogna vedere, ma mi risulta che la medesima compagnia che ha citato l'ascoltatore in realtà si sia attivata individualmente, appunto, con alcune persone che conosco, a meno che non mi hanno raccontato una bugia, però ci ritorneremo con degli approfondimenti. Io chiuderei per oggi su questo, rimandando al decreto legge numero 9, quello di settimana scorsa, il 2 marzo, che appunto dispone i rimborsi per i titoli di viaggio, perciò articolo 28 per gli appassionati del genere. Santo cielo. Matteo Prioschi, Matteo, smart working agile nel senso anche del ricorso allo smart working, ma sempre con l'accordo azienda dipendente, datore dipendente. È così? Cioè, allora, l'ultimo DPCM ha già confermato quello che era stato previsto negli ultimi precedenti, in quelli precedenti. In realtà la novità è che in questa fase, che per quanto riguarda lo smart working è ampia, perché va fino alla fine di luglio, cioè alla fine dello stato emergenziale previsto dal decreto del 23 febbraio, c'è la possibilità di fare smart working senza l'accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente. Quindi anche qui c'è una deroga alla norma generale. Certo. Dopodiché, quindi in via generale, diciamo che il datore del lavoro può disporre della scelta di mettere in smart working il dipendente, dopodiché è sempre auspicabile, diciamo, un accordo, comunque una condivisione delle scelte tra azienda e lavoratore. Allora, ci ha chiamato Enrico da Treviso, che ha un problema puntuale per un'azienda di trasporti. Ovviamente tutti i settori stanno subendo gli effetti del coronavirus. Infatti, no, hai fatto bene a fare questa precisazione, perché poi anche magari se ti va, Mauro, leggeremo questo messaggio di Fabio da Marostica, che in realtà solleva una questione da un punto di vista diverso. Stiamo continuando a cercare di spiegare a quelle aziende che avranno bisogno di farlo come consentire la cassa integrazione eccetera, ma qua bisogna lavorare e produrre. Spieghiamo anche come si fa a raggiungere l'azienda, visto che abbiamo tutte le prassi delle autocertificazioni da poter mostrare eccetera. Fabio ha ragione anche lei, però andiamo all'altro tema, scusa. Allora sentiamo se c'è Enrico, così ci fa lui direttamente la domanda. Buongiorno. In parte ha già risposto alla mia domanda, che il giorno 12 si saprà qualcosa, insomma. Esattamente. Il mio problema era, appunto, io tra i dipendenti sono di trasporto conducente, che da quando è partita questa cosa, dal 25 di febbraio, abbiamo azzerato completamente, proprio azzerato, 60 euro a settimana di incasso, i nostri guadagni. Ero preoccupato per i dipendenti più che altro, perché alla fine, avendone tre, certo, non sapevo più cosa fare, perché tutti i decreti che sono stati fatti non hanno mai menzionato su quelli che non hanno niente come noi, le partite IVA piccole, quelle con 5 dipendenti, 4 dipendenti, roba del genere. Adesso vedo che forse ci sarà qualcosa. E si spera, appunto, che almeno i dipendenti vadano messi in sicurezza per il breve periodo, insomma. Grazie Enrico. Io mi riallaccio alla sua domanda per chiedere a De Fusco: ma nel decreto legge numero 9 non c'è una forma di deroga e quindi di sostegno che possono fare le regioni? Alcune regioni, non tutte. Sì, assolutamente. Il decreto 9 già ha dato una prima indicazione normativa, ma limitatamente alla zona rossa e alla zona gialla. La zona rossa è l'ammortizzatore in deroga, è un ammortizzatore ancora più accelerato perché non prevedeva l'accordo, mentre la CIG in deroga nella zona gialla, quindi Lombardia e Veneto, sostanzialmente ed Emilia Romagna, avevano necessità di fare un accordo. Ora, quello che il prossimo decreto dovrebbe introdurre, possiamo dire, soprattutto concepito anche per le aziende fino a 5 dipendenti, che erano prive totalmente di qualunque copertura di ammortizzatore, con questa CIG in deroga straordinaria, diciamo denominata coronavirus, si accederà come se fosse un'unica grande zona rossa. Quindi è questo, penso, il passaggio interessante che dovrebbe andare a coprire tutte le casistiche presenti sul territorio nazionale. Mm-hmm. Allora, cara Deborah, io chiamerei ancora in causa Matteo, proprio prendendo lo spunto da quello che dicevi dell'ascoltatore di Marostica. Esatto. Certo, cassa integrazione, sostegni, aiuti, e ci mancherebbe altro, però anche possibilità comunque di mantenere l'operatività, magari da distante, magari con delle riduzioni. Matteo, c'è stata molta confusione nell'inizio dell'applicazione di queste possibilità di spostamento o non spostamento. Ci fai un riassunto, quindi che si deve fare nelle regioni, nelle aree Lombardia più 14 province, che si fa, e se ci si deve spostare da queste aree, andare fuori da queste zone cosiddette arancioni, che succede? Allora, diciamo che la questione è ancora oggetto di ragionamenti da parte di giuslavoristi e non solo. L'indicazione che è arrivata finora è che in buona sostanza le persone per motivi lavorativi si possono spostare, e in caso di controllo, cioè di vengano fermati, diciamo, dall'autorità, il Viminale ha dato come indicazione che la persona autocertifica la necessità lavorativa che l'ha portato appunto a muoversi sul territorio. Dopodiché appunto ci sono dei dubbi su quanto possa valere questa autocertificazione anche nei confronti della responsabilità che l'azienda ha comunque di tutelare la salute dei dipendenti, certo. Quindi spingendoli a magari chi vive fuori da queste zone entrare in queste zone per motivi lavorativi. È tutto un ampio dibattito, diciamo che nell'immediato è stato risolto da questa indicazione del Viminale, per cui basta una autocertificazione in caso di controllo da parte dell'autorità nei confronti del singolo lavoratore che si sposta. Quindi diciamo che il documento che viene magari mostrato dal lavoratore in spostamento non è che può essere contestato da un'autorità di pubblica sicurezza di una città rispetto ad un'altra, perché i prefetti stabiliscono diversamente. Quel documento di autocertificazione vale per tutti, poi bisogna vedere appunto se è una iniziativa, come dire, nel suo complesso valida. Mauro, che cosa ci rimane ancora sulle caparre per i soggiorni? Abbiate pazienza sul tema delle vacanze e dei soggiorni persi in questo periodo. Di dire che al momento dobbiamo stabilire anche con un po' di senso di responsabilità la gerarchia degli argomenti, che qua c'è gente che è preoccupata per il proprio posto di lavoro, quindi sulle vacanze ci torneremo, ve lo promettiamo, ma con tutta calma. Abbiamo un minuto, io voglio ringraziare sono un parroco della Toscana. Bravo, ecco, esatto, vai. Guarda, oramai usiamo la telepatia, infatti. Tu ed io, per andare in onda, il parroco che ci scrive dalla Toscana e ci dice: per i funerali mi regolerò secondo il criterio che ha ispirato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè niente messa in chiesa, è un luogo chiuso e affollato, solo benedizione al cimitero. La messa si farà quando le condizioni lo permetteranno. L'ho spiegato ai miei parrocchiani, non ci sono stati problemi. Per i matrimoni, dice questo parroco, non lo so. Dovrei chiedere in curia. Vabbè, se uno si vuole sposare per forza va con il futuro partner davanti due testimoni e diciamo che è più che sufficiente, e quindi però in questo mese credo che si debba assolutamente rinunciare. Non so se in regia qualcuno si deve o si vuole sposare. Credo che quello che abbiamo davanti a noi non penso nell'imminente. Va bene, comunque permettetemi una cosa per alleggerire, magari la scusa buona per rimandare delle nozze se non eravate così convinti. Ma sì, dai, chiudiamo con una risata. Abbiamo terminato il nostro tempo, che non so neanche quando sì, dobbiamo Deborah, chiudere. Il tempo giusto di ringraziare Matteo Prioschi, collega del Sole 24 Ore, e Enzo De Fusco, per entrambi restate a disposizione, sì. Per favore, grazie. Enzo. Benissimo. Assolutamente a disposizione, vi ringrazio perché questa informazione, queste comunicazioni danno certezza e aiuto a aziende che sono veramente molto molto in difficoltà. Infatti lo possiamo immaginare. Grazie Enzo De Fusco, grazie a Matteo Prioschi, grazie e noi Matteo. Torniamo domani, andremo a sfrucogliare il tema dei mutui, guarda un po' che pure lì c'è qualche cosa interessante da raccontare, forse volentieri. Sospendiamo un sacco di finanziamenti, a domani.